Also, this is by Fattori. It is a Maremma, who is in Tuscany. And we can see typical animals of Maremma. I buoi e cintesini, kind of... Ah, okay, you know? Yes, with black and white pigs, yes. Yeah, yeah. We can see the sea right there. And the shapes have black edges. And it represents the countryside. Allora, ci chiami Francesca, sì. Ok, vieni da Liceo Gramsci di Firenze, scientifico. Questo progetto, come ti è sembrato? Allora, questo progetto è stato ovviamente molto utile sia per introdurci nel mondo del lavoro, sia per anche avviarci nell'osservazione dell'arte, nella contemplazione, e questo anche grazie ai professori che ci hanno molto spronato anche a farlo in lingua inglese oltre all'italiano. E come vi siete preparati a questo? Allora, la nostra professoressa di latino ha voluto farci partecipare a questo progetto e ci ha inizialmente accompagnati in questa galleria, la Galleria d'Arte, per farci un attimo ambientare e appunto per sapere quali erano le nostre opere, quali dovevamo esporre. E poi abbiamo fatto delle prove con una guida di questo museo. E adesso a gruppi di 4-5 siamo venuti a fare guide turistiche durante questa settimana. It is set in Livorno. We can see many horizontal lines of the end of the sea and of the shore. I have a feeling I've seen that one before, yes, yes. And again, you have your bourgeois ladies. A bit bored. We can see there aren't particular, the faces are only the shape of this. Andrea. Andrea. E vieni dal? Liceo Gramsci, di Firenze, scientifico. Ok. Che ne pensi di questo progetto? Sì, è un progetto interessante, anche nell'ottica di alternanza scuola-lavoro permette di capire un po' le proprie predisposizioni per il futuro. E come vi siete preparati a questo progetto? Abbiamo fatto diverse uscite nell'arco dell'anno, siamo venuti qui più volte con le professoresse di storia dell'arte e di italiano, poi autonomamente abbiamo studiato con dei testi. È la prima volta che lo fate? È il secondo anno e anche l'anno prossimo in un progetto triennale per Firenze Capitale faremo sempre i compiti. It's one of the first subjects that represent a problem, a social problem, like poor people that without homeless. Yeah. The divisionism, because the spots are different from Machiavelli, and we can see that the color are separated, and so these paintings are made to be seen from very high distance. This is influenced by impressionism, and in fact, in the next room, there are many paintings that are from French impressionists. Invece qui diciamo un'introduzione alla vista artistica che vedremo nelle prossime sale. Perché? Perché nell'Ottocento viene inventata la fotografia e quindi la fotografia era un modo molto più accessibile a quasi tutte le persone per farsi rappresentare. E ovviamente i nobili dovevano essere un gradino sopra e quindi inizia a ritornare in voga, diciamo, ritorna in uso il dipinto e il ritratto proprio perché era simbolo di potenza, di ricchezza e di uno status sociale elevato. Infatti nelle prossime